Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Decreto semplificazioni, via libera del governo nella notte, salvo intese, Conte: sblocchiamo una volta per tutte i cantieri, sia 36 opere commissariate. Calo record del PIL italiano, meno 11% nel 2020, ribasso più contenuto per la media europea, meno 8,7%. Brasile, il presidente Bolsonaro costretto a capitolare, ho i sintomi del virus, mi curo con l'idrossiclorochina. Calcio, Serie A, stasera in campo Juventus e Lazio contro Milan e Lecce. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'approvazione, come avete sentito, del decreto semplificazioni. Sta parlando il presidente del Consiglio Conte, lo sentiremo tra poco. Poi le stime economiche in Europa e anche la cronaca con una operazione contro una serie di frodi informatiche sui conti correnti anche degli italiani. Poi lo sport, stasera, come avete sentito, si gioca Milan-Juventus. Ma iniziamo dal Consiglio dei Ministri di questa notte, che ha approvato il decreto semplificazioni, salvo intese. Poco fa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha cominciato a illustrare i contenuti del provvedimento, dalla digitalizzazione allo sblocco di una serie di grandi opere con affidamento a un commissario. Allora facciamo il punto in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Alessio, la conferenza stampa è ancora in corso. Fare correre il paese, questo è il motore dietro al decreto semplificazioni, a dirlo il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri questa notte, salvo intese, un Consiglio dei Ministri durato 6 ore. Ma allora sentiamo un passaggio di quanto ha detto il premier. In Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia Veloce, che sono state individuate specificamente dal Ministero, dal MIT, Ministero per le Infrastrutture. A queste aggiungiamo anche le opere per Cortina, quelle di competenza di altri ministeri, sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri, polizia. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere. Le opere non si bloccheranno più, spiega Conte, perché i procedimenti amministrativi saranno con sentenza breve e le stazioni appaltanti procederanno anche in presenza di contenzioso. Allora vediamo quali sono queste opere strategiche, Alessio. La Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda di Genova, la Ionica, l'ampliamento della Salaria, la Pontina. Il premier garantisce che l'Italia deve correre, ma non ci sarà spazio per il crimine e che i commissari ci saranno nei casi più complessi. Basta la paura poi delle firme nella pubblica amministrazione. Con la nuova normativa non ci saranno più rischi per il funzionario che tiene ferme le opere, spiega Conte. Quindi anche un problema all'interno della pubblica amministrazione che dovrebbe essere risolto. A te, Alessio. Grazie Elisabetta Fiorito. Dunque un elenco, a dire la verità, non nuovo, insomma non è la prima volta che sentivamo l'elenco di queste grandi opere da realizzare. In ogni caso torniamo sui contenuti di questo decreto semplificazioni, salvo intese, dicevamo, secondo fonti del governo si tratta di nodi tecnici da sciogliere, non nodi politici. Oltre alle grandi opere di cui abbiamo appena parlato, l'obiettivo è velocizzare le procedure con una serie di modifiche. Sentiamo quali. 4 le aree di intervento per realizzare gli obiettivi di semplificazione e innovazione digitale dopo il CDM notturno che dà il via libera al programma nazionale di riforma che il governo seguirà nei prossimi mesi. Tra le misure sul primo fronte dei contratti pubblici ed edilizia si introduce in via transitoria fino al 31 luglio 2021 una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto per prestazioni inferiori a 150.000 euro, negoziato senza bando se superiori 2 mesi o fino a 4 per l'aggiudicazione. Poi, per i procedimenti e responsabilità degli amministratori, definito in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio e tempi certi di risposta per gli adempimenti burocratici. Al punto 3, diffusione dell'amministrazione digitale con cittadinanza digitale tramite SPID, carta d'identità digitale e tramite app IO su smartphone. E poi al punto 4, semplificazioni in materia di imprese, ad esempio con velocizzazione dei lavori per infrastrutture di rete, per le comunicazioni elettroniche e la banda larga, e sburocratizzazione dei contributi per ambiente e green economy. Economy interventi nelle zone economiche ambientali per incentivare fonti di energia rinnovabile, punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici e progetti del Green New Deal. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, come anticipato dai titoli, le stime della Commissione Europea sull'andamento, il calo del PIL in Europa e in Italia. L'Italia è il paese peggiore secondo queste stime, sentiamo. Ultimi in Europa per il PIL, che quest'anno la Commissione prevede in calo dell'11,2%, un crollo che, secondo Bruxelles, l'Italia non compenserà affatto nel 2021, quando, se tutto andrà bene, cresceremo del 6,1%. L'Eurozona nel 2020 vedrà il PIL scendere dell'8,7%, dopo l'Italia i paesi con il calo maggiore sono Spagna e Francia, entrambe con un crollo superiore al 10%. Per Bruxelles si tratta di una recessione ancora più profonda delle attese e con divergenze più ampie. Il commissario agli affari economici Gentiloni è esplicito. Quello che emerge da queste previsioni è che certamente la crisi ha colpito tutti i paesi europei, ma non allo stesso modo. Se quindi vogliamo evitare che aumentino le differenze nella famiglia europea, dobbiamo varare al più presto questo piano di recovery proposto dalla Commissione. Di acque tempestose parla il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, che avverte dei rischi economici legati a una seconda ondata di contagi e rilancia l'appello per il varo del recovery fund. La divergenza intraeuropea sta tutta nei numeri, che rispecchiano i fronti pronti a darsi battaglia al summit di metà mese. Austria, Olanda, Finlandia e Svezia vedono cali del PIL compresi tra il 5 e il 7%, poco più della metà del nostro. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, oltre una impresa su tre in Italia sarebbe a rischio fallimento, lo fa sapere l'Istat in base a una indagine sulle imprese sopra i tre addetti. Si tratta di un campione che riguarda circa 3,6 milioni di lavoratori. E ora la cronaca: sono 123 i migranti che hanno lasciato ieri sera la Ocean Viking dopo l'esito negativo dei tamponi per il coronavirus. Ora passeranno la quarantena sulla nave Moby Zaza. Gli altri 57 migranti, per i quali l'esito del test non è ancora arrivato, resteranno sulla nave della ONG SOS Mediterranee. Intanto il ministro della Salute Speranza blocca i voli dal Bangladesh, mentre il Veneto annuncia una nuova stretta su controlli e sanzioni. Dal Veneto all'Emilia-Romagna, dalla Toscana al Lazio, decine e focolai di nuovi contagi da coronavirus sotto osservazione in varie regioni italiane. L'ultimo a preoccupare, quello collegato ai rientri dal Bangladesh, con un numero significativo di casi positivi, almeno 21, riscontrati sull'ultimo aereo arrivato ieri a Roma. Di qui la decisione del ministro della Salute Speranza di sospendere per una settimana tutti i voli da Dhaka. Dopo tutti i sacrifici fatti, non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero, ha scritto il ministro in un post su Facebook. In Veneto invece misure più stringenti, con la nuova ordinanza emanata ieri dal governatore Zaia, dopo il focolaio importato da un imprenditore vicentino in seguito a un viaggio di lavoro in Serbia. Norme più stringenti per chi arriva dall'estero e obbligo di mascherina sul luogo di lavoro per 7 giorni, anche se negativi al primo test. E intanto ci si prepara per far ripartire in sicurezza uno dei settori più delicati, quello della scuola. Si pensa a test sierologici per circa 2 milioni di lavoratori, insegnanti e personale tecnico ausiliario, a 2 settimane dall'avvio dell'anno scolastico. In caso di positività si passerà al tampone, se confermato scatterà la quarantena. Stessa procedura per i ragazzi, ma a Campione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora la situazione nel mondo: Australia verso un nuovo lockdown, in Brasile il presidente Bolsonaro ha ammesso di avere i sintomi del Covid. Più di 11 milioni e mezzo di persone nel mondo hanno contratto il coronavirus e oltre 538 mila sono morte, secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi si sono diffusi in 210 paesi da quando il Covid-19 è stato individuato per la prima volta in Cina nel dicembre dello scorso anno. Il paese più colpito è il Nord America, seguito da Brasile e India. Negli Stati Uniti sono ormai 130 mila i morti e continuano a crescere i contagi. Positiva anche la sindaca di Atlanta, Bottom, ma senza sintomi. E nonostante l'impennata di casi, Donald Trump su Twitter scrive: le scuole devono riaprire in autunno. Intanto in Brasile, dove le vittime sono ormai più di 65.000, test in corso per il presidente Bolsonaro, che presenta i sintomi del coronavirus. Lo ha affermato lui stesso, precisando che sta prendendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi, la sua agenda politica è stata annullata per tutta la settimana. In Australia, infine, dove sono oltre 8.500 i casi e più di 100 le vittime, vittime, lockdown per almeno 6 settimane per oltre 5 milioni di persone a Melbourne, la seconda città più grande del paese per l'incremento di casi di coronavirus. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. A Hong Kong è scattata la prima applicazione della legge sulla sicurezza nei confronti di uno degli autori delle proteste dei giorni scorsi. Mentre la governatrice della città, Carrie Lam, ha difeso la nuova legge imposta da Pechino sulla ex colonia, non ritenendola una sventura. Intanto lo scontro si sposta anche sui social network con TikTok, la app cinese di condivisione di brevi video, che ha fatto sapere di interrompere il servizio proprio ad Hong Kong. Con la cronaca rientriamo in Italia. Diverse operazioni da parte di polizia e carabinieri quest'oggi, 51 arresti a Napoli, dove le forze dell'ordine hanno colpito il clan camorristico Vanella Grassi. 200 carabinieri invece sono entrati in azione tra Sardegna e Lombardia in un blitz contro il narcotraffico che ha portato a 33 arresti. E poi frodi informatiche, sono state arrestate 13 persone tra Italia e Romania. Le truffe arrivavano via internet ai danni di cittadini italiani ed europei a cui sono stati sottratti 20 milioni di euro all'anno. La Polizia Postale Italiana annuncia di aver smantellato una delle più importanti organizzazioni transnazionali finora scoperte nel settore delle truffe informatiche. 13 gli arresti tra Italia e Romania su ordine del GIP di Genova dopo 2 anni di indagini. Tutti rumeni, i capi dell'organizzazione che grazie a una squadra di hacker in Romania truffava in 4 modi. Email con virus per sottrarre password e dati personali, siti clone identici agli originali, ad esempio di banche, per sottrarre codici personali, truffe su falsi siti di vendite online e infine annunci di case vacanze inesistenti. Scoperta a Genova la centrale di riciclaggio con una rete di prestanome e di corrieri che riportavano all'estero il denaro contante. A Roma invece maxi operazione contro il clan camorristico dei Senese, da 30 anni attivo nella capitale, guidato da Michele Senese, detto Pazzo. 28 gli arresti eseguiti anche nelle province di Napoli, Verona, Frosinone, L'Aquila, con accuse di estorsione, usura, riciclaggio. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore. Sport, calcio, Serie A di nuovo in campo con 2 importanti partite questa sera. Carlo Genta. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, anche perché altro incrocio scudetto con la Lazio che alle 19:30 va a Lecce, ma soprattutto la Juventus che viene a Milano per sfidare un Milan in grande salute stasera 21:45, ma un Milan che è in piena chiacchiera perché ieri insomma è stato non ufficializzato ma detto a chiare lettere, fatto capire a chiare lettere quale sarà il futuro. Pioli, che sta guidando molto bene peraltro il Milan in questo finale di stagione, lascerà, con lui lascerà anche Maldini, si aprirà l'era di Ragnik con il doppio ruolo di massimo dirigente e di allenatore. Ripeto, questo non è ufficiale, ma sono notizie che sono uscite ieri e che poi approfondiremo in piena bufera in un Milano che non dorme mai, anche l'Inter. Anche questo sarà oggetto all'ordine del giorno, argomento all'ordine del giorno. Grazie Carlo, appuntamento col pomeriggio sportivo naturalmente dopo le 14. Noi alle 13:13 invece facciamo un piccolo break, come sempre torniamo tra poco, ripartiremo dalla indiscrezione pubblicata oggi sul Corriere della Sera: test sierologici a scuola a settembre per tutto il personale della scuola. Sarebbe questo il modo per rientrare in sicurezza a scuola a settembre, secondo una proposta del CTS, riportata appunto oggi dal Corriere. Ne parleremo tra poco, poi il commento e l'analisi del decreto semplificazione con le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte poco fa, che ne ha illustrato alcuni contenuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. È arrivato il momento di ripartire e con più intelligenza di prima. L'ERP di Centro Software è lo strumento di innovazione di cui hai bisogno per gestire tutti i processi aziendali e ottenere risultati vincenti. Industria 4.0, CRM, supply chain, logistica, pianificazione, gestione finanziaria, e-commerce integrato con l'ERP e tutti i reparti in perfetto collegamento, anche in smart working. Centro Software, per ripartire ancora meglio di prima. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Effetto giorno. In primo piano il calo record del PIL italiano, meno 11% nel 2020, secondo Bruxelles, dato peggiore in Europa. Via libera nella notte del decreto semplificazioni, sblocchiamo 130 opere, dice Conte. Scuola, test sierologici per 2 milioni di persone a settembre, la proposta degli esperti del CTS, ne parliamo tra poco. Calcio Serie A, stasera in campo Juventus e Lazio contro Milan e Lecce. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Torna a trovarci il professor Pierluigi Lopalco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, Lopalco. Allora, per commentare con lei, prima di tutto, una notizia che pubblica oggi il Corriere della Sera in prima pagina ed è l'unico quotidiano a dare questa notizia. Secondo il Comitato Tecnico Scientifico per ripartire con la scuola in sicurezza a settembre, ricordiamo che abbiamo ancora 8 milioni circa di studenti che sono in attesa di sapere come, quando, forse si sa, il 14 settembre, ma insomma come si riapriranno le scuole. Ebbene, la proposta sembrerebbe questa: test sierologici per 2 milioni di persone tra insegnanti, bidelli, personale amministrativo in tutte le scuole. A dire la verità, in una fase come questa, in cui diciamo, c'è il dibattito tra prudenti e spavaldi, tra minimizzatori e allarmisti, sappiamo che il virus sta circolando ancora forte, soprattutto all'estero, abbiamo ancora pochi punti fermi, a dire la verità. Ma al di là di questo, qualche punto fermo ce l'abbiamo, cioè diciamo gli insuccessi, le difficoltà a costruire questa fase sulle famosa app, per cui abbiamo 4 milioni di download, che sono meno del 10% per quanto riguarda Immuni, e questo strumento non ce l'abbiamo. I test sierologici, Lopalco, il campionamento nazionale non è andato a buon fine, ha detto il capo della Croce Rossa Rocca qualche giorno fa, siamo a meno del 50% del campione. Allora io mi domando, ma questa sembra veramente l'ennesima fuga in avanti, no? Questo test sierologico per 2 milioni di persone a fare nei primi giorni di settembre. Le chiedo che cosa ne pensa di questa ipotesi, a cosa può servire. Ma sicuramente siamo un paese strano, questo dobbiamo ammetterlo, perché voglio dire, abbiamo per mesi detto ma quando arriva Immuni, poi arriva Immuni e nessuno la scarica. Tutti facevano la fila per fare anche a pagamento i test sierologici, poi la Croce Rossa chiama le persone non vogliono fare il test sierologico, quindi c'è qualcosa che non va, probabilmente nella modalità di comunicazione, probabilmente nella modalità di organizzazione di queste grandi misure, che sono delle misure di prevenzione. Ora, la proposta di fare il test sierologico a tappeto a tutto il personale scolastico è un buon passo, può dare delle informazioni importanti sulla circolazione del virus in questo gruppo di popolazione, quindi aggiunge un tassello in più di sicurezza a quello che deve essere una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza. Ecco, però Lopalco, cosa le faccio questa domanda, no? Servirebbe fare questo test tenendo conto dell'immenso sforzo organizzativo che bisognerebbe compiere per fare in 2 settimane il test a 2 milioni di persone, anche il costo, ma ammettiamo che questo si riesca ad assorbirlo e ne varrebbe sicuramente la pena per la scuola. Ma cosa serve fare un test a settembre se poi da ottobre insegnanti, bidelli, tutti, ma anche i ragazzi, si azzera tutto, no? Cioè, tramite viaggi, la propria vita normale, in famiglia, nei ristoranti, si può incorrere di nuovo nel contagio, quindi si riazzera tutto. Servirebbe farlo con regolarità o anche solo una volta, ha senso? Ma appunto è uno screening, quindi significa che ci dà una fotografia in un preciso istante in quel tipo di popolazione. Probabilmente ci darà delle informazioni molto diverse regione per regione, perché è chiaro che l'epidemia in Italia non è stata un'epidemia, ma è stata la somma di diversissime epidemie. Quindi probabilmente nel nord troveremo una quota maggiore di positivi, nel sud molto pochi. È una linea di base. Poi c'è da dire anche questo: se si fa il sierologico, comunque i positivi devono essere testati col tampone. Quindi ipotizziamo che su queste 2 milioni di persone, ipotizziamo che una certa percentuale, globalmente probabilmente anche inferiore al 10%, risulterà positiva, questi dovranno essere sottoposti al tampone. Fra questi non è escluso che si possa individuare qualche portatore, si tratterà comunque di numeri piccoli, perché immaginiamo che in estate il virus non abbia circolato tanto. ripeto, è un pezzetto di informazione che può servire a impostare poi magari degli interventi successivi, come diceva lei, per esempio, sì. Magari si ripete dopo un mese, punto interrogativo, cioè è importante che ci sia una strategia chiara su come affrontare la ripartenza. Questo forse è il punto dolente, la strategia chiara, poi tenendo conto che non siamo riusciti a portare a termine per ora, ma stanno per scadere i test sierologici di una società americana presi dal governo per sapere quanto è diffuso il virus in Italia, perché sui 150.000 italiani, come ricordava lei, intervistati, intercettati, meno della metà hanno aderito. Mi domando come si possa portare a compimento un test su 2 milioni di persone in 2 settimane. Detto questo, però, Lopalco, le voglio chiedere un'altra cosa. È di ieri una lettera appello di 239 scienziati sulla pericolosità del virus ancora in circolazione, una lettera inviata all'OMS. In particolare si rilancia la questione del contagio per via aerea tramite aerosol. Io le chiedo, anziché tramite le classiche goccioline di cui abbiamo, diciamo, certezza che sono davvero trasmissive del virus, ci sono novità, scoperte scientifiche in questo senso che ci devono far preoccupare, o siamo, come dire, di fronte al rilancio di una vecchia preoccupazione che però, insomma, non è ancora dimostrata, ecco. Sì, esattamente come lei dice, fondamentalmente non c'è nulla di nuovo in termini di evidenze scientifiche. Il virus non è mutato granché, quindi è ancora pericoloso, laddove circola è pericoloso. Sulla faccenda della trasmissione si sa che con un colpo di tosse, con uno starnuto, laddove c'è una persona, soprattutto una persona appunto sintomatica, uno che tossisce, insieme con le goccioline che rappresentano probabilmente il 90% di quella che è la capacità di contagio di questo virus, si possono anche generare degli aerosol. È il motivo per cui, per esempio, in ospedale gli operatori sanitari devono avere occhiali, devono avere mascherine di tipo 3, di FP3 di sicurezza, proprio perché si devono difendere anche dagli aerosol. Ma questo ovviamente non significa che se io cammino per strada il virus sta circolando nell'aria e mi posso contagiare. Questo è fuori discussione. Ecco, meno male. Grazie professor Lopalco, grazie per essere stato con noi ancora una volta. Buon lavoro e buona giornata. Buon lavoro anche a voi. Allora, detto questo, ci sarebbe poi da domandarsi perché 239 scienziati hanno fatto questo appello, diciamo, senza che ci fossero delle novità concrete sul fronte del contagio via aerea, ma questo è un altro aspetto, insomma. Non spetta a noi adesso indagare su questo. Invece, dedicato anche a chi sicuramente all'ascolto, lo vedo già dai messaggi, gli scettici e comunque tutti quelli che ci accusano di fare allarmismo, di parlare soltanto del coronavirus, non è vero, parleremo tra poco anche di altro, però proprio dedicato a voi il servizio di Daniele Biacchessi sul contagio invece in America Latina, che sì, in un continente giovane, molto giovane, con una popolazione mediamente molto più giovane rispetto a quella italiana, sta facendo tantissime vittime, e questo credo che forse sia una cosa su cui riflettere. Sentiamo. I dati della contaminazione da coronavirus sono sempre più spaventosi in Sud America: 1.600.000 in Brasile, 302.000 in Perù, 296.000 in Cile. E ancora un'escalation in Messico, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Panama, Guatemala, Honduras, Repubblica Dominicana, Venezuela. Oltre la metà dei contagi del mondo si verifica proprio nei paesi dell'America Latina. I numeri delle statistiche parlano di almeno 2.000 morti al giorno, con una previsione devastante da parte di numerose organizzazioni internazionali: si raggiungeranno i 440.000 morti a ottobre di quest'anno. Le cause di questa pandemia sudamericana sono essenzialmente tre: un livello di povertà e indigenza tra i più alti nel mondo, una disuguaglianza tra classi sociali impressionante, scelte politiche sbagliate. Nelle grandi megalopoli è praticamente impossibile mantenere le distanze. I servizi igienici non esistono, in alcuni paesi non sono assicurate le cure mediche, in altri non c'è la volontà di realizzare i test. L'accesso agli ospedali è un lusso per pochi e il numero di terapie intensive attrezzate è esiguo. Secondo recenti stime della Banca Mondiale, l'emergenza sanitaria farà sprofondare il reddito di 50 milioni di persone ben sotto la soglia di povertà. E tutto accade in un clima di alta tensione sociale, dove ci si attendono disordini con tanto di repressione da parte degli apparati di stati per nulla devoti alla democrazia. 13:26 minuti, torniamo in diretta con un paio di aggiornamenti per quanto riguarda la conferenza stampa di Conte che sta illustrando i contenuti del decreto semplificazioni. Allora, abbiamo una notizia che riguarda la Sardegna, dice Conte: commissariamo 9 dighe sarde per dare l'acqua ai sardi. Poi ancora il ponte sullo Scrivia in Liguria, detto Conte, invece di fare manutenzione lo demoliamo e lo ricostruiamo. E poi ancora, per quanto riguarda per esempio la norma su Alitalia, l'obiettivo è far camminare Alitalia sulle sue gambe, dice Conte. E poi ancora l'ultima cosa che vi leggo è questa, ne parleremo tra poco con Alberto Orioli, diciamo, ci addentreremo nel commento del decreto semplificazioni. Per quanto riguarda autostrade, ha detto Conte, abbiamo avviato il procedimento, il governo ha definito le sue condizioni, che però non sappiamo ancora quali sono, noi diciamo spettatori. Aspi faccia sapere se accettano, se no procederemo con la revoca. Dunque questo, diciamo, lo stato dell'arte per quanto riguarda la questione del nodo autostrade, che è tangente rispetto all'argomento della conferenza stampa, che il decreto semplificazioni, con un elenco di 130 opere sbloccate, 36 andranno con il commissario. Ne parliamo tra poco. Per i vostri messaggi 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Decreto semplificazioni, via libera del governo, salvo intese Conte, sblocchiamo una volta per tutte i cantieri. Calo record del PIL italiano, meno 11% nel 2020, è il dato peggiore in Europa. Intanto una impresa su tre in Italia a rischio fallimento, secondo un sondaggio Istat. Brasile, presidente Bolsonaro costretto a capitolare, ho i sintomi del virus, mi curo con l'idrossiclorochina. Intanto il ministro della Salute Speranza ordina il blocco dei voli in arrivo dal Bangladesh. Calcio, Serie A, stasera in campo Juventus e Lazio contro Milan e Lecce. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, stavo guardando tra i vostri messaggi, magari più avanti le vediamo, insomma, leggiamo qualche cosa. C'è chi dice che non ha trovato la app Immuni. Abbiamo fatto il punto al professor Lopalco sull'andamento un po' di tutte le strategie, compresa la ripartenza a settembre della scuola con i test sierologici per tutti. Dice questo ascoltatore che la app non appare sul Google Play e sugli store. No, dovrebbe esserci, io ci sono andato, l'ho scaricata e c'era, a meno che non l'abbiano tolta. Adesso però è con noi Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, ciao. Buongiorno, ben ritrovato in diretta con noi, anziché con il consueto punto con cui ogni giorno ci aiuti a leggere la realtà, l'attualità. Alberto, per quanto riguarda il decreto semplificazione, bene, credo che abbia finito di parlare Conte da poco. Intanto ti chiedo, questa ennesima approvazione notturna con tanto di pathos, no? Sembra quasi una tecnica ormai studiata per quasi coprire con le ombre della notte provvedimenti in cui il governo arriva faticosamente. Come leggi questo decreto semplificazioni? Ma intanto sì, parliamo del metodo. Effettivamente sembrano più delle trattative sindacali all'interno delle forze di governo, queste cose che avevano bisogno della notte, magari di tante sigarette fumate, per arrivare con la mente un po' annebbiata a dire finalmente sì ai contratti di lavoro, magari o a piani sulle vertenze. Insomma, effettivamente tensioni fra le componenti della maggioranza ce ne sono state, cioè nella fase di messa a punto di questo decreto, che è importante perché comunque agisce sul tema delicato della gestione degli appalti, delle gare, dei controlli e quant'altro. Mi sembra importante, devo dire la verità, che ci siano due cose. Uno, che finalmente si stabilisce, si troverà il modo di stabilire, perché poi bisogna vedere come sono scritte le norme, perché il diavolo, come sempre, è nei dettagli. Ma sostanzialmente si dice che un appalto continua ad andare avanti anche se c'è un ricorso magari del secondo, di quello che ha perso l'appalto e che non ci vuole stare, senza che questo comporti il blocco. Devo dire, uno dei problemi principali della nostra lungaggine nella gestione poi degli appalti e dei grandi lavori è proprio quella che un'impresa, un consorzio di imprese vinceva l'appalto, ma il primo nome escluso, diciamo, cioè ricorso d'ufficio, bloccava d'ufficio il bloccava lavoro. Tutto. Motivo per cui magari poi si creava una trattativa informale tra i due concorrenti, trovavano il modo di rientrare in partita e cose di questo genere che hanno a che fare assai poco col mercato, a dire il vero. Ebbene, questa cosa dovrebbe finire e sarebbe davvero auspicabile, mi sembra un segnale vero di semplificazione. L'altro segnale importante è la questione del danno erariale. Il danno erariale era così, è quello, il grande spauracchio che ha messo in campo la burocrazia difensiva, si chiama, no? Cioè, il funzionario che non firma niente perché è terrorizzato di finire nei guai con la Corte dei Conti, eccetera. Invece, teoricamente, anche qui bisognerà vedere se poi la scrittura della norma reggerà l'urto della realtà. Accadrebbe il contrario, cioè in questo caso il danno erariale è in presenza solo di effettivo dolo e non più per problemi anche formali di scrittura dei testi e quant'altro, ma c'è semmai una forma di inasprimento di punibilità per il funzionario che non fa mandare avanti la pratica, e questo sarebbe è una rivoluzione per così dire importante, che come sempre viene bene negli effetti annuncio, ma ha bisogno di un'implementazione normativa che non finisca poi nei meandri dei ricorsi, contro ricorsi, e finisca tutto bloccato come purtroppo spesso capita in queste tematiche. Certo, perché trattandosi qua di un decreto, poi ci sarà poi tutta una serie di declinazioni applicative che sono quelle poi su cui spesso arrivano le difficoltà vere. Alberto, invece, per quanto riguarda la questione di questo elenco, non so se c'è già un elenco completo di queste, Conte ha parlato di 130 opere che vengono sbloccate, 36 sarebbero in commissariamento, quindi diciamo una via di mezzo del modello Genova, però mi spiegavi che in realtà proprio il modello Genova non è, perché si fa riferimento anche comunque alle norme vigenti. Intanto ti chiedo questo elenco, se è troppo lungo, troppo corto, se diciamo bisogna impressionarci positivamente o se è un modo per buttare la palla in tribuna. Magari no, diciamo, non voglio essere troppo cinico o troppo negativo e pessimista, però è anche vero che devo dire che forse da quando faccio il giornalista che vedo elenchi di opere da sbloccare, e spesso sono sempre quelle. Purtroppo credo che anche stavolta non avremo grandi sorprese, poi un po' ne ha citate alcune, ma insomma, però insomma c'è un'individuazione di grandi opere che in parte sono quelle che già erano all'attenzione dei governi precedenti, che avevano un problema anche lì di sblocco di lotti e quant'altro. La ministra ha detto che effettivamente ha indicato una trentina di opere complessive che avranno bisogno di un commissariamento. Lei parlava di commissariamento per ragioni giuridiche, perché c'erano problemi proprio di gestione formale anche di alcuni appalti che si erano bloccati, e citava il caso delle dighe sarde. Alcune poi sono particolari, nel senso che avranno bisogno di una governance un po' diversa, per esempio le 12 opere che riguarderanno caserme e presidi militari, che quindi evidentemente non sono appalti per così dire normali. È vero che non è passata però l'idea di una deregulation complessiva, di un modello Genova dovunque, che in un primo tempo di ubriacatura, di efficientista, diciamo così, era considerato il modello migliore, ma era troppo derogatorio rispetto alle regole, troppo blando poi nella parte dei controlli, e quindi questa cosa aveva trovato il veto del PD e di Leo. È stata ricomposta così, vedremo anche lì la fase attuativa, perché poi ripeto, un conto è far vedere le slide in conferenza stampa a Palazzo Chigi, un conto tramutarle in cantieri con i caschetti gialli che sono al lavoro. Alberto, un'ultima cosa, al di là delle grandi opere, che è l'obiettivo dichiarato sicuramente di questo decreto semplificazioni, l'obiettivo diciamo più in controluce era forse meno dichiarato, ma in realtà più importante, era proprio quello di semplificare realmente tutta una serie di procedure, di gare d'appalto, di lavori per far ripartire, soprattutto in questa fase di emergenza dell'economia, ma direi in generale il paese. Vedi degli strumenti che vengono inseriti in questo decreto semplificazioni adatti a velocizzare non solo alcune di queste grandi opere, ma insomma un po' in generale i lavori pubblici in questo paese, o no? Ma guarda, il fatto che per lavori che abbiano un massimale di 150 milioni non sia più necessaria la gara, ma ci sia la possibilità dell'affido diretto, che oggi era limitato a importi da 40.000 euro, può essere una cosa importante. Può essere altrettanto importante il fatto che ci sia una semi-deregulation negli appalti che valgono un po' più di 5 miliardi, che avranno bisogno di una negoziazione centralizzata, diciamo così, coinvolgendo 5 società competitor, senza innescare una vera e propria gara con procedure di segretezza o di offerte che hanno tempi lunghi, eccetera, ma semplicemente di consultazione. salvo poi il diritto di scegliere da parte del committente. C'è una responsabilizzazione forte delle centrali di appalto, che sono poi le grandi committenze pubbliche. Si vedrà se saranno davvero in grado di rispondere all'esigenza che obiettivamente il Paese avverte in modo molto netto, e non solo il Paese, lo avverto anche tutti, come posso dire, le grandi constituency internazionali che saranno i nostri padrini e ci osserveranno nel momento in cui chiederemo fondi copiosi all'Europa, no? E vedranno se effettivamente saremo in grado di questa volta di spenderli, se avremo imparato la lezione che non abbiamo imparato nel corso di tanti decenni, cioè di non essere capaci a creare dei piani di investimento che siano degni di questo nome e poi siano conseguenti rispetto alle mirabolanti cifre che vengono normalmente abbinate a questo tipo di piani. Speriamo che davvero si possa voltare pagina. Come dire, nell'elemento comunicativo della conferenza stampa di oggi questo è l'intendimento. Poi, come sempre, ripeto, bisogna vedere come sono fatti i provvedimenti. Non dimentichiamo che anche questo è un provvedimento monstro, avrà sicuramente bisogno di svariate decine di provvedimenti attuativi, i tempi forse non saranno proprio come dire, da tempo reale o da digitalizzazione spinta, ecco, quindi vedremo. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Allora, adesso, nei minuti che restano, vi vogliamo raccontare un'altra piccola storia che è andata a buon fine, anche se ci è voluto un certo tempo per arrivare dall'obiettivo messo a fuoco a marzo di produrre mascherine chirurgiche da parte di un apparato dello Stato, stiamo parlando della Marina, fino al fatto di riuscirci effettivamente. Siamo a luglio, ebbene, l'obiettivo è stato raggiunto dall'arsenale della Spezia, ne parla oggi un articolo sulla Nazione, in cui si ricorda come l'Istituto Superiore di Sanità ha certificato il prodotto e adesso effettivamente può iniziare la produzione. Con noi il contrammiraglio Andrea Benedetti, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che è direttore dell'Arsenale Marina Militare della Spezia. Allora, intanto questo è anche un primato, anche se ci è voluto un po' di tempo, io ho detto con una certa ironia, però l'emergenza è passata, adesso voi state ragionando su un discorso un po' diverso. Siete il primo ente pubblico ad aver ottenuto questa autorizzazione, giusto? Sì, per quello sì, assolutamente sì, siamo gli unici certificati all'Istituto Superiore di Sanità ad oggi. Ecco. Sì, abbiamo cominciato. Ah, chiedo scusa. No, e quindi le chiedo esattamente di raccontarci come è nata questa avventura. Noi, l'Arsenale è uno stabilimento di lavoro, effettivamente, che fa tante cose, tra cui per esempio cura, fa lavori di tappezzeria e lavori di veleria per le navi a vela, per il Vespucci, eccetera. Quindi noi abbiamo degli apparati, delle persone che sanno cucire. Non avevamo mai fatto mascherine. Quando abbiamo capito che c'era questa possibilità, perché è una cosa che è uscita con i decreti di marzo, questa qui, abbiamo pensato che forse potevamo provarci anche noi. Non è stato semplice, non è stato semplice perché siamo dovuti inventare un altro mestiere di fatto, anche se le capacità ce le avevamo, perché cucire una mascherina non è difficilissimo, insomma, però ottenere la certificazione partendo da zero senza essersi mai occupati di questa materia non è stato facile. Abbiamo dovuto studiarci le normative, abbiamo dovuto studiarci i materiali, individuare quelli corretti, avviare il processo con l'Istituto Superiore di Sanità, è andato a buon fine. Devo dire che ci hanno dato una grossa mano dall'Istituto Superiore di Sanità, va detto, e non solo loro, e alla fine ce l'abbiamo fatta e ora possiamo partire con la produzione. Senta, che caratteristiche hanno, particolari o no, insomma, queste mascherine chirurgiche, credo di capire, che producete alla Spezia? Sì, sono mascherine chirurgiche di tipo 2, questa è una dicitura molto tecnica, in realtà possono essere utilizzate anche in ambito sanitario, sì. Ma noi le impiegheremo come dispositivo di protezione tipico per il Covid, per i nostri dipendenti, questo è il primo uso. Poi chiaramente, siccome speriamo di riuscire a far salire la produzione rispetto alle previsioni iniziali, insomma di mandare a regime un sistema in grado di produrne parecchie, e siccome il sistema è economico anche dal punto di vista proprio finanziario, quindi siamo in grado di produrle a prezzi molto bassi, non vogliamo fare affari, per carità di Dio, perché certo. Assolutamente non ci sogniamo di farci soldi, ma vorremmo, cioè, di più, non solo per i nostri usi interni, ma anche per renderli disponibili a chiunque ne abbia bisogno, quindi eventualmente anche alla collettività. Insomma, è un tassello questo di un puzzle più grande che abbiamo insomma, imparato a mettere a fuoco durante la fase dei mesi bui di marzo e aprile, quando ci siamo accorti che avevamo bisogno di tante cose che in Italia per vari motivi non si producevano più, si importavano, e quindi complimenti sicuramente per questo. Io la ringrazio, ammiraglio, contrammiraglio Benedetti, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata. Bene, questa è una piccola storia, insomma, se vogliamo, a lieto fine. Ci è voluto un po' di tempo, ma adesso questo è il primo ente pubblico italiano a produrre mascherine sul suolo nazionale. La Marina, nell'arsenale di La Spezia, che dunque passa dal cucire le vele della Vespucci, per esempio, tra le altre cose, la storica nave, a cucire mascherine per il bisogno di tutti noi. Ci fermiamo, torniamo tra poco, 349-238-6666 per i vostri messaggi, e ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. 13:49 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. Ancora un aggiornamento per quanto riguarda le parole del Presidente del Consiglio Conte sulla conferenza stampa del post decreto semplificazioni. In realtà la notizia che riguarda l'Ilva: c'è stato un problema per l'emergenza Covid rispetto alla tabella di marcia, ha detto Conte, ma c'è un accordo siglato a marzo. Abbiamo individuato nel frattempo il partner pubblico Invitalia per il co-investimento con Imital, e il dossier Ilva, dice Conte, sta andando avanti con gli obiettivi prefissati. Adesso invece, nello spazio in cui di consueto leggiamo i giornali internazionali, finestra aperta sul mondo, oggi con Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo, ben ritrovato. Buongiorno Alessio, buongiorno a te e agli ascoltatori. Presente? Ingiustificato. Come sempre. Come quando Giulia è assente, giustificata, giustamente tu sei presente. Io sono il contrappasso vivente della Crivelli. Sì. Allora, caro Giampaolo, oggi nuova puntata tra le 16 e le 17 di Nessun sì. Luogo. Cosa mettete a fuoco in primo piano? So che vi occupate anche di Francia, c'è un nuovo governo, sì. Non si è capito bene questo governo che così è nato in meno di un'ora, ci hanno messo pochissimo. Diciamo che Jean Castex è stato molto molto veloce, nuovo primo ministro, ha formato un governo. Gli analisti, diciamo, i critici dicono ha cambiato tutto per non cambiare nulla, in omaggio alla moderazione. Ecco, l'idea di Macron e del suo En Marche, profondamente in crisi dopo la tornata elettorale, è di ammiccare un po' all'elettorato moderato francese, e da ciò si spiegherebbero una serie di nomine. Comunque 31 ministri, 17 donne, 14 uomini, con, ti anticipo già, un po' di polemiche. In particolare il nuovo ministro della giustizia, che è Éric Dupond-Moretti, sì. Che, e lo dico alla francese evidentemente, lui è mezzo italiano. Mezzo italiano, è un avvocato penalista molto noto, aveva seguito anche il caso di Julian Assange, sì. E aveva appena accettato di tenere una rubrica su Europe 1, che è una emittente francese, appunto, una rubrica quotidiana che sarebbe stata molto seguita, ma evidentemente adesso non potrà più farlo, né potrà più evidentemente tuonare contro, da un lato, il Front National, Marine Le Pen, perché aveva attaccato parecchie volte quando era avvocato, addirittura aveva proposto di vietare il partito. E poi soprattutto aveva tuonato contro la magistratura, che è quella che adesso lui dovrà guidare. Nell'ordine l'aveva definita codarda, incompetente, inaffidabile, moralista, insomma un attacco frontale negli scorsi mesi e negli scorsi anni. Adesso dovrà in qualche modo ricomporla, perché andando al Dicastero della Giustizia, come dire, si troverà in una situazione e dovrà vestire panni un pochino più morigerati, quantomeno nel linguaggio. E poi Castex si è liberato, tra virgolette, evidentemente, e politicamente, anche di Sibeth Ndiaye, che era l'ex portavoce del governo, che era una gaffeuse clamorosa, aveva inanellato una serie di gaffe pubbliche, compreso una sorta di mezzo invito agli insegnanti francesi a dare una mano all'agricoltura, sai quel detto, no, italiano, sì, sì. Braccio rubato all'agricoltura, rubata, insomma, diciamo che Castex ha fatto un repulisti che promette, ripeto, nel cambiamento di dare continuità a questo governo nel nome della moderazione. Questo è il capitolo francese. Poi, come sai ovviamente, perché hai i tuoi informatori, fai intelligence. So tutto della tua scaletta del programma del pomeriggio. Iran-Iraq. Iran-Iraq. Partendo dall'Iraq, perché partiamo da una notizia di cronaca, ai più non dirà molto. Il nome Hisham al-Hashemi è stato ucciso il 6 luglio, era un ricercatore iracheno, 47enne, è stato freddato da svariati colpi di pistola a Baghdad mentre saliva sulla sua autovettura da 3 uomini non meglio identificati. Gli hanno sparato prima da lontano, poi alla testa. Che cosa faceva al-Hashemi? Era un ricercatore, era esperto soprattutto di Stato Islamico e di movimenti terroristi. Aveva molte volte aiutato il governo iracheno nell'inquadrare proprio questo complesso mosaico. Ultimamente si era detto molto molto preoccupato e aveva denunciato di essere nel mirino soprattutto delle milizie filo-iraniane che affollano l'Iraq. Quelle milizie sciite che il 4 luglio, mentre Donald Trump celebrava la festa dell'indipendenza, hanno preso di mira ancora una volta l'ambasciata americana nella zona verde di Baghdad. Oggi, da questo spunto di cronaca molto doloroso, cercheremo di capire ancora meglio come si muove la politica iraniana attraverso i cosiddetti proxy, quindi attori terzi, le milizie in Iraq ma anche in Yemen, e daremo uno sguardo grandangolare, no? Come amiamo dire sì. Noi sulla relazione tra Iran e Iraq, due paesi importantissimi, non sempre molto raccontati. Sembra quasi una storia da film, la storia di questo ricercatore. Tra l'altro mi fa, in qualche modo mi ricorda anche quella di Giulio Regeni, era un ricercatore anche lui sui temi sociali, forse un tema meno scottante rispetto a quello dell'ISIS, però insomma è una storia quasi da spionaggio. Assolutamente, hai ragione anche a, come dire, a lasciar correre un po' la memoria, no? Intellettuale, emotiva al caso Regeni, con la differenza che lui era, Hashemi era iracheno, quindi ancora di più coinvolto e poi fra l'altro era conosciutissimo da Martin Chulov, inviato storico del Guardian in Medio Oriente, ma anche gli ospiti che avremo lo hanno conosciuto di persona. Diciamo che il problema quando vai a pestare le uova, ecco, per usare un'espressione colorita ma non volgare, quando sei straniero è molto più facile, no? Magari sei di base a Beirut o a Milano, vai a rimestare un po' nel fango iracheno e poi però te ne torni a casa. Chi fa il ricercatore, chi fa l'analista, il giornalista o il fixer, no? Quello che aiuta i giornalisti e sta nel posto, il rischio è molto molto alto. Difficile che se ne tiri fuori. Assolutamente. Quindi Hashemi ha pagato con la sua vita la passione, la ricerca, la volontà anche di dare all'Iraq una stabilità che francamente, te l'anticipo, la nostra tesi è che è molto molto lontana. Giampaolo, grazie. A voi. Nessun luogo invece tornerà a non essere lontano tra vicino, le 16 un po' più e le 17 con te e la tua squadra. Grazie per essere stato con noi. È tutto per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonesi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, ed Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.